Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. Buon pomeriggio, buona domenica, nuova puntata di A Ruota Libera. Torniamo a parlare di itinerari in bicicletta, di viaggi con le due ruote. Purtroppo siamo ancora in piena emergenza coronavirus, ma insomma andare in bicicletta di certo non presenta controindicazioni, anzi è un simbolo di ripresa e di positività. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in bici e treno, questo è il tema di oggi. Parliamo di intermodalità, cioè di come la bici può viaggiare sul treno. Di questo ne parleremo tra poco con un esperto della FIAB, e di itinerari turistici che possono essere compiuti a bordo dei treni storici lungo le più belle linee ferroviarie della penisola. Treni antichi che possono trasportare, pensate, fino a 100 biciclette. Ne parliamo con Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Ferrovie dello Stato. Un progetto nato nel 2014 per il quale ci trovavamo davanti a un enorme patrimonio di ponti in pietra, di binari, di gallerie, di linee ferroviarie che correvano in angoli remoti della nostra penisola, e lo facevano in un modo bellissimo, uguale a come gli vecchi ingegneri delle FS le avevano costruite, cioè con delle lunghe giravolte in mezzo alle montagne, attraversando in maniera anche un po' buffa da una parte e dall'altra fiumi e laghi. Insomma, un patrimonio di ferrovie che purtroppo non trasportavano più né pendolari né merci. E quindi abbiamo pensato di riutilizzare il patrimonio esistente in un modo nuovo, restaurando 350 treni antichi, locomotive a vapore, carrozze 100 porte, carrozze di prima classe con il velluto e i merletti di pizzo al poggiatesta. Insomma, una famiglia di treni che potessero correre su queste antiche ferrovie. E di portarci un po' anche al passato, anche nelle loro atmosfere, allestimenti. Esattamente, non solo riportarci dal punto di vista della suggestione, ma trasportarci nel passato, ed è per questo che si chiamano binari senza tempo. Sono linee meravigliose, sono oggi 10 in Italia. In 4 anni, 5 diciamo, abbiamo recuperato e salvato dall'abbandono, dalle sterpaglie, 650 km di ferrovie, piccole stazioncine che non vedevano traffico più da 50 anni, alla domenica si rianimano, soprattutto di un nuovo turismo colto, rispettoso dell'ambiente, che non usa l'auto e che invece ama farsi dondolare sul tam-tam delle 100 porte, conversare, abbassare il finestrino. Sui treni moderni il finestrino non si abbassa più, sui treni storici della Fondazione il finestrino si abbassa, la velocità non supera i 50 all'ora, ci si sporge, ci sente il profumo delle foreste, si sente il profumo dell'arsura del meridione quando si penetra l'interno della Sicilia per andare nella Valle dei Templi. Questo è il viaggio. E rigorosamente, me lo lasciate confessare, il telefonino prende poco. Quindi uno è per forza connesso con la natura, è connesso al momento presente, e la novità è che bisogna andare incontro alle esigenze di un turista, come ho detto, consapevole. La bicicletta. Ecco, la bicicletta, raccontiamo un po' che spazio ha la bicicletta in questi treni. Enorme. Le Ferrovie dello Stato hanno dismesso alla metà degli anni 90 tantissimi carri per il trasporto della posta, perché evidentemente con l'elettronica facciamo clic, parte l'email e non ne nasce più la necessità di spedire un plico postale. Ha fatto quindi venire meno quella grande rete di trasporti postali, lasciando abbandonati sugli scali decine di carri bagagliai. Noi li abbiamo ripresi, li abbiamo restaurati, all'interno li abbiamo riallestiti con delle rastrelliere portabici, e quindi al treno storico si può agganciare il bagagliaio portabici capace di 100 posti bici. E stiamo lavorando per allestire il noleggio delle biciclette già a bordo tanto del treno. E quindi in questa stazione, in mezzo alla Maiella oppure al Tagliamento o nella Valle dei Templi, ciascuno scendendo dal treno può prendere una bicicletta e inerpicarsi per le strade che dalla stazioncina portano nella bella provincia italiana e fare tutto da sé. La sera, quando il treno ripassa, si ricarica la bici e si arriva in città senza aver utilizzato il mezzo privato. Quindi può anche prendere magari il treno a una stazione diversa, possibile per il ciclista? No, allora, il treno storico viaggia con un'origine e una destinazione. Sostanzialmente si parte sempre dallo stesso posto, perché sono delle linee... Però hanno delle stazioni. Molte stazioni lungo il percorso. Quindi il ciclista in teoria potrebbe scendere dove ritiene. Esattamente. E farsi trovare alla stazione successiva. Assolutamente sì, assolutamente. Se ha voglia di pedalare, insomma. Corretta. Ah. È la stessa cosa che avviene con il Bernina Express, che è una ferrovia turistica tra Tirano e St. Moritz, dove si usano gli scarponi da montagna. Si scende a una fermata, si cammina nel ghiacciaio e si riprende senza problemi di biglietto il trenino alla stazione successiva o ancora quella dopo o dove la camminata finisce. Questo sarà quindi il modo di riprendere il treno quando la pedalata si decide di fare finire. Quindi è davvero un incontro versatile, mobile, tra una ferrovia che penetra il territorio e con questo modo di bici prendi e ridai penetra anche e incontra le esigenze del viaggiatore, nuovo viaggiatore turista ferroviario. E ogni tour più o meno quanti chilometri sono in treno? Il tour medio dura in una giornata 60-70 km, perché dobbiamo pensare che il treno non viaggia appunto a una grande velocità. Molto dipende il tipo di mezzo, se c'è una locomotiva a vapore, se c'è una littorina, se c'è una carrozza con una locomotiva elettrica degli anni 30. Quello che posso consigliare, vestitevi comodi, perché i treni sono ancora quelli di una volta, con le pedali in legno, alti, scarpe da ginnastica e soprattutto non pensate di stare troppo al telefonino, perché nelle nostre linee in mezzo al verde molto spesso il segnale telefonico non prende, se non per emergenza. Ne faremo una ragione, insomma. Secondo me più che una ragione è un motivo per andarci veramente, perché alla sera tornando ricorderete la giornata che avete vissuto e toccato e non da quella che avete visto invece sul vostro device. 100 biciclette in un vagone di questi treni antichi, ma come viaggiano invece normalmente le bici sui treni italiani? Dobbiamo sempre smontare e impacchettare il nostro mezzo e quanto si paga per salire a bordo con le due ruote? Facciamo il punto con Massimo Gaspardo Moro, responsabile intermodalità bici e treno della Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Oggi sui treni puoi viaggiare con la tua bicicletta su quasi tutti i treni regionali pagando un biglietto giornaliero che costa 3,50 euro e devi però scegliere i treni che hanno il logo bici, cioè quelli che fanno trasporto bici al seguito. Quindi ci sono anche treni regionali sui quali non è possibile portare la bici? Sì, esatto, purtroppo ce ne sono ancora. È vero però che sono entrati in servizio i primi nuovi treni regionali, quelli che hanno questi nomi pop e rock, perché il Trenitalia ha questi nomi musicali per i nuovi treni, e questi treni hanno tutto il trasporto biciclette, fino a 24 biciclette per ogni treno, a seconda di quanto sono lunghi. E questi treni perciò quanti sono? Sostituiscono il 50% dei vecchi treni. Diciamo, i primi sono entrati in servizio l'anno scorso, perciò nel giro di qualche anno avremo il 50% dei treni completamente nuovi e con il trasporto biciclette, il che vuol dire che praticamente elimineranno tutti i treni vecchi e ci avvicineremo ad avere il 99% di treni che trasportano biciclette. Però stiamo escludendo sempre l'alta velocità. Esatto. Come possono essere trasportati sui treni regionali le biciclette? Sui regionali sali con la tua bicicletta. Senza nessun problema. A volte magari è un po' difficoltoso, comunque insomma gli agganci non sono proprio facili. Ma insomma quello... No, su questo c'è sempre un po' di discussione. Noi come FIAB abbiamo una certa idea e ci piacciono molto i sistemi che usano in certi paesi, tipo la Germania oppure la Francia, insomma, dove le biciclette rimangono appoggiate per terra e affiancate alla parete. Le bici appese sono un po' meno comode, perché ad esempio se hai una e-bike e se non sei una persona molto robusta, insomma, fai fatica, no, ad appenderla. Però insomma comunque anche quelli con le bici appese vanno bene. Se vuoi viaggiare su un treno intercity, ed è la novità di a fine dell'anno scorso Trenitalia ha iniziato a mettere anche sugli intercity i posti bici. Tutti gli intercity entro quest'anno avranno 6 posti bici e questa è una bella novità, perché fino a ieri per viaggiare con la bici sull'intercity dovevi smontarla e chiuderla in una sacca. Ad oggi quanti saranno? Avete un'idea già? No, questo mi pare che siano i primi 5 convogli sono stati equipaggiati, sì. Però entro fine 2020 ci sono circa 90 intercity al giorno in Italia, ogni giorno 90 servizi intercity, avranno tutti 6 posti bici. Ecco, resta il problema della velocità, in cui bisogna appunto mettere la bici dentro una sacca oppure smontarla. Esatto, questo, sì, la devi smontare, chiudere in una sacca e sperare di trovare una bagagliera nella carrozza dove sistemarla, perché non è facile. Lì siamo ancora un po' indietro, perché invece in Francia e in Germania tu puoi salire con la tua bicicletta anche sui treni ad alta velocità. Bene, grazie a Massimo Gaspardo Moro della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Ci sentiamo la prossima domenica, sempre dopo le 16. Buona bici a tutti.